penso che questi giocatori stanno nella storia dell'Inter, succede quel che succede, come eroi di Barcellona. Io penso che i nipoti dei giocatori un giorno sentiranno parlare del suo nonno, eroe di Barcellona. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Barcellona-Inter, un universo blaugrana, 110.000 spettatori con un lucentissimo pianeta di 4.500 anime nerazzurre giunte fin qua per sostenere i campioni d'Italia. Il clima nel catino del Camp Nou è assolutamente incandescente. Adesso attenzione, mamma mia, no, di Thiago Motta. Speriamo che non succeda quello, no, che temo. Panalo di rosso, secondo rosso. Giallo e rosso. La squadra oggi si gioca con 10, non perde mai questa partita. Si gioca con 10 compagni dall'inizio della partita, chissà la vince perché abbiamo un pochino più di qualità davanti. Messi ai 20 metri, Messi mette palla sulla sinistra, serve ancora Xavi, quasi al limite, Piqué solo, Piqué si ferma, giravolta, rete. Ha segnato il Barcellona, attenzione, siamo al 39esimo nel corso della ripresa. Continua ad attaccare il Barcellona, Dani Alves, la palla sul destro del rigore, Lucio l'allontana, è finita! L'Inter è in finale della Coppa dei Campioni! È il momento più bello della mia carriera, ti dico io. Più bello del primo campionato che ho vinto, più bello della Champions, il più bello di tutti. Il più bello di tutti, per i miei ragazzi, per i tifosi dell'Inter, il più bello di tutti. Buongiorno a tutti, ciao Pierluigi Pardo, ciao Giovanni Capuano. Ciao. Buongiorno ragazzi, 28 aprile 2010 l'Inter scrive a Barcellona, lo ricordiamo, il manifesto di un'enorme impresa sportiva. L'1-0 in 10 è il simbolo, credo, del triplete, forse ancora di più della finale. Presidente Moratti, buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie davvero di essere con noi. Le cifre tonde portano bene all'Inter fin dal 1910, primo scudetto. Ieri con Beccarossi ricordavamo i 40 anni da quello dell'80. L'80, sì. È vero, sì. Che quella partita è stata il manifesto di quella cavalcata sportiva impressionante, la partita di Barcellona? Ha ragione, senza dubbio, è stata la partita più emozionante comunque. E anche la più valorosa, perché poi sotto un certo aspetto il fatto di essere in 10, abbastanza ingiustamente mi sembra, fin dai primi minuti, aveva dato una carica ai giocatori incredibile, ed è stata per tutti, per i tifosi, per noi tutti, fantastica, insomma, come partita. Pierluigi, tu non l'hai commentata quella gara? No, però sono andato a vederla, uno dei rari casi di viaggio fatto, perché era straordinario, forse ero da qualche parte non lontano, adesso non mi ricordo, però sono andato a vederla e devo dire che il Presidente ha riassunto benissimo, è stata la più meravigliosa, passami questa espressione, delle sconfitte, questo 0-1, ed è stata veramente la bellezza di una squadra. Il calcio è perfezione estetica, qualità del gioco, ma è anche tantissime altre cose. Quell'Inter lì e quella partita lì in maniera particolare ha incarnato magnificamente proprio quelle qualità, la sofferenza, lo spirito di sacrificio. Io in quel periodo stavo scrivendo con Eto'o la sua autobiografia, e Eto'o era invasato, invasato tecnicamente, era innamorato di Mourinho, delle cose che Mourinho raccontava in conferenza stampa. C'era uno spirito in quella squadra che Presidente avrà vissuto in prima persona, incredibile. Non che mancasse la qualità tecnica, tecnica era straordinaria, ma senza quello spirito questi risultati non sarebbero arrivati, e quella, sono d'accordo, è la partita. Il segno di Mourinho fu quello che Pierluigi era quello che Pierluigi Pardo ha detto, no? Cioè quella Eto'o che dice: se posso suonare la tromba, suono la tromba, se no devo suonare il tamburo, suono il tamburo e gioco terzino. Presidente. Come? Non ho sentito l'ultima parte. No, dicevo che quella, che quello spirito che Mourinho era riuscito a dare a quella squadra era un po' il simbolo. Si ricorda quella frase di Eto'o, che proprio Eto'o che diceva: se devo fare gregario, faccio gregario e suono il tamburo giocando terzino. Sì. Beh, Eto'o però è stato speciale, perché Eto'o, se uno pensa alla classe di Eto'o, al livello di Eto'o, allo stile di Eto'o, e vederlo poi fare una partita di fatica come ha fatto quella sera, così come ha fatto tante altre partite, perché poi si è messo sempre a disposizione dell'allenatore, è proprio grandissimo professionista. Poi, conoscendolo il carattere, che è un ragazzo invece orgoglioso, che vuole far vedere e che vuole far capire che lui è il simbolo del suo paese, l'idea che fosse così, che sia così umile professionalmente, è veramente di grande merito. E quella sera è stato stupendo, è stato bravissimo. Giovanni, mi vengono in mente, condivido con te questa riflessione, pochissimi presidenti, ma davvero pochissimi nella storia del calcio sono stati amati quanto Massimo Moratti. Tu te ne ricordi qualcun altro? Non credo. Beh, amati e odiati, perché anche Massimo Moratti, chi ha seguito l'Inter in larga parte della sua avventura, sa che non sempre sono stati momenti belli, anche se poi chiaramente per i tifosi dell'Inter, io immagino, insomma, lui resti nella mente per quello che ha fatto, e quello che ha fatto è riassunto tutto in quei 15 giorni, i 15 giorni che portano al triplete, che portano poi alla finale di Madrid, e non credo ci siano molti altri presidenti che col passare del tempo saranno in grado di portarsi dietro questo tipo di ricordo, anche allontanandosi dal momento in cui hanno lasciato. Mi piacerebbe che il presidente Moratti, io c'ero, Carlo, lo sai, perché sì, certo, ero lì per raccontarla, insomma, per noi, ci raccontasse un po' quei due giorni di Barcellona, perché c'è quell'immagine meravigliosa alla fine in cui lui in tribuna stringe la mano al presidente, quasi scusandosi, al presidente del Barcellona. In realtà furono giorni un po' particolari, cioè quella fu una semifinale che fu vissuta non soltanto in campo, tra accuse, veleni, polemiche, ci fu insomma un clima un po' particolare anche che si respirò a Barcellona in quei giorni. Beh, insomma, era il normale, il clima normale di una partita così importante. Insomma, questi avevano perso 3-1 a Milano, volevano fare la remontata, quindi sotto un certo aspetto c'era tutto quel desiderio che si trasforma per i tifosi in una grande, l'idea di una grande battaglia. Che insomma si respirava nell'aria. Il presidente del Barcellona era un amico, una persona per bene e bravissima. Abbiamo fatto poi l'operazione di Ibrahimovic l'anno precedente, per cui gli ero assolutamente riconoscente, e l'idea di vedere la partita insieme, insomma, non era una cosa, lì si usa molto in Spagna ed è una cosa a cui noi siamo meno abituati. Per cui c'era l'imbarazzo così ogni tanto di esagerare nel proprio tifo nei confronti della squadra, ma invece poi ci siamo tutti e due comportati con molta attenzione, pur essendo una partita di una tensione bestiale, per cui quando alla fine poi l'arbitro ha fischiato la fine, io non avevo visto il cartello dei tempi supplementari, dei minuti in più, per cui del recupero. Per cui per me mancava ancora tanto, per cui quando ho visto ho visto mio figlio che è saltato e mi guardava con un sorriso infinito, ho detto allora è finita, e mi sono lasciato prendere dalla felicità. Poi dopo naturalmente subito mi è venuto in mente, dicevo, di fianco a questo povero uomo che invece aveva tutto un sentimento diverso, perché gli ha dato la carezza e mi sono scusato. Presidente, si può dire che la Champions l'Inter l'abbia vinta quella sera, o che quella sera abbia avuto la consapevolezza che era la strada che avrebbe portato lì? Direi che proprio quella sera noi abbiamo avuto non la presunzione, non c'era quello, perché il giocatore ha giocato sempre seriamente, con umiltà, ma l'idea ce l'avevamo dentro che ormai era andata la cosa. Io poi, conoscendo Mourinho, che era stato allievo dell'allenatore del Bayern, avevo la sicurezza che Mourinho conoscesse, ed era una delle sue grandi facoltà quello di conoscere bene il gioco degli avversari, conoscesse così bene il gioco del Bayern che fosse più facile per lui condurre quella partita, che poi è stata importante, difficile lo stesso, ma insomma la cosa più difficile per noi era superare quella serata lì a Barcellona. Presidente, lei ha mai più avuto modo di parlare con Ibrahimovic di quell'incredibile intreccio? Ne ha fatto anche lei prima cenno, perché è vero che le imprese sono costruite col lavoro, alle volte però è anche vero che nascono magari dal caso, e insomma Ibrahimovic doveva restare all'Inter in quella stagione e Eto'o doveva restare al Barcellona, poi dopo le cose sono andate diversamente ed è finita così. Beh, ma il caso, poi dopo quando succedono queste cose qua, diciamo che è un caso voluto, perché poi alla fine lì c'è uno scambio di giocatori. Devo dire che Ibrahimovic si è comportato sempre, sempre, sempre molto bene con noi e con il Barcellona, naturalmente. Il primo telegramma o SMS di congratulazione che abbiamo vinto la Coppa dei Campioni, che ero negli spogliatoi di Madrid, e l'ho ricevuto da Ibrahimovic, per dire che non era una cosa semplicissima per lui, non immagino che non fosse semplicissima. Io lo trovo, ho sempre trovato un professionista serissimo che ha fatto quello che così aveva in mente di fare, ma che comunque ha sposato anche quello che potesse essere le nostre intenzioni. E alla fine ci è andata bene, devo dire che Eto'o è stato un giocatore che ha reso molto di più, non ritorno a quello che ho detto prima, è stato molto più utile di quello che ci aspettassimo. Sì. Pierluigi, cosa ti ha detto invece Eto'o nella sua biografia a proposito dell'Inter, di quell'Inter del presidente? Beh, no, ma c'era uno spirito incredibile, ma quella squadra, ripeto, ha vinto per dei valori tecnici enormi, perché è una squadra pazzesca. Però ha vinto soprattutto e tutti i protagonisti, da Giulio Cesar, che si racconta che Mourinho aveva messo la maglietta della remontata nello spogliatoio, appunto allo stesso Eto'o, tutti i protagonisti di quella squadra ti raccontano che c'era qualcosa che ha ulteriormente accelerato la qualità di tutto, no? Ha aumentato la qualità del gioco, ha aumentato il livello di coesione e poi ha portato al risultato, quindi questo è oggettivo. No, volevo chiedere al presidente di Mourinho, che poi ha dichiarato che se fosse venuto alla festa a San Siro si sarebbe lasciato convincere, non avrebbe più trovato la forza per lasciare Milano, se ci ha mai ripensato a quel destino, a quell'intreccio lì nel post partita di Madrid. Sì, è stato decisamente un po' stonato alla fine della partita, ma poi la sera dopo l'ho visto Mourinho, che poi dopo la sera dopo sono andato, è lunedì, insomma due sere dopo è venuto a Milano e abbiamo cenato insieme a casa mia. Ma aveva capito che... No, Mourinho c'è, cioè, anche insomma, uno che fa quella scelta come quello che si diceva prima, insomma il caso c'entra relativamente. L'aveva pensata e nessuno ha voluto disturbarsi per non rompere quello che era l'incantesimo che stavamo vivendo, quindi certo. Abbiamo lasciato che tutto andasse. Poi dopo sono venuti fuori sentimenti, ripensamenti e tutte queste cose, che può darsi che se fossero arrivati prima magari il Mourinho rimaneva, ma non vincevamo la Coppa dei Campioni. Lasciamo che sia andata così. Però un filo amaro con l'ultima pagina è stata. Vabbè, sì. Anche per le parole, io non riesco a dimenticare le parole di Milito subito dopo la vittoria, prima ancora di alzare la Coppa, presidente. Che cosa aveva detto? Non mi ricordo più. Aveva detto, tu te lo ricordi Giovanni? Aveva detto sì, penso di restare. Penso di restare, ma adesso vediamo, dobbiamo parlarne, eccetera. In quel momento non fu il massimo. Sì, però posso dire una cosa? Io credo che oggettivamente, e lo posso dire da giocatore della PlayStation, quindi pensa tu, quando tu fai il triplete, cioè un'impresa così, così straordinaria, così clamorosa. Questo vale per tutti, secondo me, è un fatto estremamente umano. È molto difficile poi nella stagione successiva, perché non c'è più il limite, perché hai vinto tutto, perché la stagione dell'Inter di quell'anno è stata perfetta, perché quei 20 giorni fra la finale di Coppa Italia contro la Roma, Siena e Madrid erano stati talmente perfetti, per cui insomma è chiaro che poteva essere un epilogo diverso, ma insomma io credo forse che vale anche per il presidente, di 6-10 anni si ricordi la gioia di un'impresa difficilmente ripetibile nella storia del calcio, no? Dicevi Giovanni? No, dico, forse vale anche per i presidenti, che è difficile darsi la motivazione per altri obiettivi. Sì, no, beh, può anche essere, sì, che a un certo punto ti senti molto soddisfatto, però poi i presidenti si trovano a che fare con 1500 altri problemi che sono anche economici piuttosto che beh, poi anche reggere livello, quindi no, lì subito dopo abbiamo avuto questa operazione fatta con Benitez che non ha sposato, insomma non c'è stato un matrimonio ben fatto, insomma che non è riuscito benissimo, mentre poi con Leonardo devo dire che abbiamo avuto dei bellissimi successi e se fosse venuto prima, mi dispiace dirlo, ma se fosse arrivato un po' prima forse avremmo anche quell'anno lì portato a casa qualche cosa di più della Coppa Italia, che comunque era un buon risultato perché siamo arrivati al secondo campionato a pochi punti dal Milan. Quindi no, dai, per i presidenti c'è sempre comunque il dovere, perché guarda che una delle cose dei presidenti è anche non è soltanto la passione oppure per qualcuno l'interesse, non lo so, ma è il senso del dovere che è assolutamente ti mette sempre in condizione di lavorare per la società. Presidente, oggi posso fare una domanda, sì, certo, al presidente a proposito delle assenze all'alba del giorno dopo rispetto a Madrid, perché lui giustamente ha ricordato Mourinho che resta a Madrid, a San Siro all'alba quando viene portata la Coppa dei Campioni entrano in campo Zanetti e il figlio di Massimo Moratti. Massimo è rimasto, lui ci racconterà insomma fare altro. Lei ha mai pensato, sognato che potesse essere quasi un gesto di investitura per il futuro, per suo figlio? No, voleva essere prima di tutto il fatto che fosse, avevo pensato che un po' tutto insieme, il fatto che non ci fosse Mourinho mi seccava di andare a Milano e far vedere che mettermi in vista non mi sembrava la cosa più simpatica. E perché? Perché mi sembrava che Mourinho meritasse questa specie di passerella di San Siro, e un po' anche perché mi rilassavo, cioè l'idea di stare a Madrid finalmente, svegliarmi la mattina dopo e dire va bene, abbiamo vinto la Coppa dei Campioni, questo sole meraviglioso, non era una cattiva idea. No, il fatto che mio figlio, sì, certamente l'ho pensato, ma l'ho pensato non per dare un incarico, dargli un così poverino, metterlo in condizione, poverino, nel senso che non è leggero il fatto di dire a una persona adesso do in poi e continuare, perché è un incarico pesante quello lì. No, mio figlio era molto felice di tornare a Milano e pensavo che fosse bello che rappresentasse la famiglia in una continuità che non voleva dire che poi dopo diventasse presidente dell'Inter, ma voleva dire che come seguiva e come tutti e due i miei figli e tutta la mia famiglia mi ha seguito così da vicino, fosse giusto che rappresentassero anche loro questa vittoria. Ha sofferto come me e hanno deciso assieme a me tante cose, però ecco, dire che proprio quello fosse un incarico per dire il futuro, però insomma era un po' pesantina, insomma, come eredità non è un'eredità leggera, insomma. No, di sicuro. Economica non lo è per niente, da un punto di Presidente, questa mattina Mourinho ha detto Messi, Ronaldo, carriere lunghissime, i migliori certamente, ma dal punto di vista del talento puro non c'è gara. Il migliore che ho visto io è stato il numero 9 brasiliano, Ronaldo, il fenomeno. Sì, sono d'accordo con lui, avendolo avuto noi, lui poi non ha mai avuto la fortuna di poterlo allenare, però l'ha conosciuto, e no, Ronaldo era veramente fuori dal normale, come era eccezionale, aveva veramente una classe immensa, e sinceramente gli infortuni che ha avuto sono stati un'ingiustizia spaventosa nei suoi confronti, perché avrebbe avuto una carriera ancora più splendente e sarebbe rimasto all'Inter senza quegli infortuni. Pierluigi, stamattina è intervenuto, avrei sentito questa mattina a Radio 24, 24 mattina, Silvio Berlusconi. No, a me è venuta nostalgia, e condivido con tutti voi questa considerazione, ma anche tristezza per quella Milano del calcio e per questa strada che è più lunga e difficile del previsto, probabilmente, per arrivare dov'era. Io vorrei fare una domanda adesso proprio che c'entra col calcio, ma fino a un certo punto, perché Massimo Moratti è un grande milanese, un grande imprenditore milanese, e quindi mi piacerebbe chiedergli che cosa prova in questo momento, come vede in questo momento questa città che negli ultimi anni ha corso tantissimo, è cresciuto tantissimo, improvvisamente vuota, temporaneamente vuota, e se ha già un'idea sul futuro, su quello che sarà, su, sulla Milano che verrà, se bisognerà modificare qualcosa, se sarà proprio invece la, l'energia, il dinamismo imprenditoriale, culturale, economico di questa città che darà nuova energia. Ma un futuro c'è, ci sarà, da tanti discorsi, alcune volte sembra che quasi quasi la gente o qualcuno ne parli di un futuro come se fosse negato. No, il futuro c'è. Il futuro c'è, c'è attraversando con una pazienza infinita e con uno spirito di sacrificio grossissimo questo disgraziatissimo periodo, che d'altro canto è qualche cosa che noi conosciamo talmente poco e ci ha preso tutti talmente di sorpresa che non possiamo permetterci di essere orgogliosamente con il petto in fuori, rincominciamo domani mattina, spacchiamo il mondo, perché purtroppo contro è un nemico invisibile e quindi non sai dove colpirlo, non sai come fare, non sai come non subire i suoi attacchi. Quindi bisognerà proprio sinceramente, affidandoci certamente ai consigli dei medici, ma avere poi le scelte più intelligenti per affrontare con prudenza incredibile. Poi le qualità, guardi che la cosa principale è sia nelle persone come quindi una città che rappresenta un insieme di persone, sono le qualità. Poi alla fine la qualità di Milano rimane come la qualità di tutto il paese rimane. Quindi nel momento in cui è possibile o ci saranno gli spiragli necessari per poter andare avanti, questa qualità verrà dimostrata, insomma, e quindi si riprenderà. Il futuro sarà ancora, non so in quanto tempo, ma il futuro sarà ancora positivo per questa città. È un peccato che sia stata colpita proprio in un momento in cui era al massimo della gloria, insomma. Però nella vita questa è una lezione di vita non da poco, insomma, sì. Perché e invece il futuro della Milano del calcio, presidente, torno lì, dicevo prima, la strada per tornare là è stata forse anche più lunga e difficile del previsto, parlo sia del Milan che dell'Inter. Beh, ma sanno, insomma, hanno fatto parecchio tutte e due le squadre, insomma, il Milan ha avuto dei successi notevoli e l'Inter poi, come dicevate voi prima, ha avuto fortunatamente dei successi che non sono facilissimi poi da ripetere in poco tempo. Quindi io credo che anche lì devi guardare a chi sono in mano le squadre. Per quanto riguarda l'Inter, io credo che siano capitati bene, insomma, mi sembra che la persona e che il gruppo che abbia in mano l'Inter abbia sia la voglia sia i mezzi per rispedire la squadra ad alti livelli, insomma. Quindi quello, devo dire, un tifoso cerca di capire, cerca di sentire. Quello certe volte gli basta per poi avere la pazienza necessaria per raggiungere gli obiettivi. Giovanni, volevo chiedere ancora qualcosa? Ma sì, ho letto che una decina di giorni fa il presidente Moratti ha detto che il calcio in questo momento deve fare un passo indietro, insomma, per mille ragioni. Volevo capire se ora che il paese sta lentamente cominciando a riaprirsi ha cambiato idea, prospettiva, e che cosa pensa dell'idea che tanti portano avanti, cioè che questa crisi farà bene al mondo del calcio perché ha vissuto al di sopra delle proprie possibilità, e dunque, diciamo, una decrescita felice non deve essere necessariamente salutata con sfavore. Allora, tornando al mio pensiero sul campionato, niente, molto semplice, ma ripeto, forse io non essendo più un addetto ai lavori, non tengo presente di tutte le condizioni negative e positive che ci sono, ma insomma, andando via diritto su questa cosa, per conto mio dobbiamo prepararci al nuovo campionato, e l'idea di rincorrere ancora il campionato che è andato sia molto pericoloso da un certo punto di vista e da un altro punto di vista una perdita di tempo. E poi la seconda cosa che era, mi perdoni, che mi ha chiesto. Ci sono tanti che ritengono che questa crisi farà bene al mondo del calcio, sì, perché costringerà questa a vivere crisi a tutto il mondo, insomma, sta obbliga tutto il mondo a ripensare quello che stava facendo, il mondo dell'industria, il mondo del commercio, di tutti i progetti e i budget di cui eravamo pieni, insomma, vengono rivisti, riguardati, e bisogna capire esattamente quali sono i nuovi obiettivi, che non è una cosa semplicissima, e poi com'è la distribuzione della forza nel mondo, perché poi adesso in questo momento qui abbiamo paesi come gli Stati Uniti che hanno preso dei colpi del KO non da poco. La Russia certamente non si trova in splendide condizioni, la Cina si sta riprendendo, bisogna capire quali sono, in quale parte del mondo insomma, si riprenderà per prima. Questo per un paese che non ha materie prime come il nostro e quindi deve anche seguire quello che è l'andamento del resto del mondo. Io credo che stando veramente nelle istituzioni, cioè in Europa così, si possa con più facilità ritornare vicino a quello che c'era prima, però ci saranno degli obiettivi certamente diversi. È una lezione questa involontaria che però ci mette in condizione di dover adeguarsi a un nuovo modo, un nuovo stile. Per il calcio, sa, il calcio rimane sempre un sogno e tu nel sogno fai di più di quello che invece nella realtà potresti fare, e quindi io penso che con cifre magari saranno, non saranno decisamente uguali, ma sarà sempre un po' oltre a quella che è la normalità della vita degli altri. Insomma, il calcio è fatto per far sognare la gente, quindi la pazzia di andarti a comprare un giocatore caro la farai sempre. Speriamo. Posso rubare il lavoro a Barisoni e approfittare del presidente Moratti per chiedere che effetto le fa, al di là delle speculazioni, questo momento del petrolio, questa ridiscussione sulle energie alternative, questo momento in cui per ovvi motivi ovviamente la domanda, in un momento in cui stanno tutti fermi, si è così abbassata, c'è immagino una forte componente di natura ovviamente speculativa in tutto questo, però è qualcosa di storico, no? No, è un fatto storico, certamente, quando confrontano questa crisi in tutti gli aspetti con altre crisi finanziarie, così non c'è paragone. Non c'è minimamente paragone, perché questa è una crisi che ha colpito tutto il mondo, non ha colpito soltanto un paese, una parte del mondo, una categoria, ha colpito tutti. E quindi anche il mio mestiere, insomma, che ha una crisi che è esattamente quella del consumo, cioè non ci sono consumatori, non c'è domanda. E quindi come tale anche questo qui subisce una differenza di valore. Il petrolio ha sempre avuto la caratteristica di avere un prezzo molto flessibile, che è andato da $150 a $2 ed è, sta ritornando più o meno a quel livello. Però insomma ci sono costi alti di ricerca, specialmente negli Stati Uniti, quindi questo crea dei disequilibri di un certo tipo. Anche lì insomma possiamo aver capito qual è il guaio attuale, bisogna e tutte le conseguenze di questo guaio, ma non abbiamo potuto ancora capire esattamente come si sveglierà, come andrà avanti. Questo non fa abbandonare un'idea che il futuro è certamente da guardare con gli occhi di energie anche alternative, perché lì c'è di mezzo un'altra questione, che è quella climatica, che può avere la stessa gravità che noi abbiamo conosciuto con questa situazione invece di carattere virale. Certo. Volevo, Presidente, volevo farla salutare da un mio amico che è anche suo. Leo Turrini, buongiorno. Buongiorno Presidente. Oh Turrini, come sta? Bene, volevo dirle una cosa che forse le è sfuggita, che questo ultimo decreto del governo dove ammette finalmente i conti tra affetti stabili è stato scritto anche per me, lei ha capito? Perché vorrei dire che io e Moratti siamo congiunti, siamo uniti con congiunto, amore eterno per lì, Presidente? E qui c'è una cosa meravigliosa, il governo si permette di ritrovarsi, no? Io e lei finalmente, di nuovo uniti a soffrire lo spasimo da settembre in poi, quando sarà, capito? Ma noi abbiamo tanto che ci lega, io le voglio bene a nome di un intero popolo. Sono 10 anni da quella notte magica del Bernabeu e mi fa piacere ricordarlo con lei, che è uno dei miei affetti stabilissimi. Grazie caro Presidente. Abbiamo scoperto che siete parenti. Non serve neanche l'autocertificazione dopo questo intervento, quindi adesso... Grazie Presidente. Grazie a voi. Grazie Presidente. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Grazie anche ovviamente per Luigi Pardo e Giovanni Capuano. Io mi tengo Leo Turrini, che ascolta con me la borsa, su cui siamo in ritardo e chiediamo scusa. Poi arriva anche l'altro tuo congiunto, Marino Bartoletti, e continuiamo a parlare. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Beh, voi sapete, Leo Turrini, Marino Bartoletti, buongiorno, ribuongiorno a Leo. Eccoci qua. Ma quindi ho scoperto che sei parente di Moratti, congiunto, quindi puoi ricongiungerti. Strettissimo, ma voglio dirti che anche nei confronti di Marino, questo chiarissimo decreto del governo ci consente finalmente, ecco, di riunirci. Sì. Io e Marino siamo due congiunti e quindi mi fa molto piacere che lui abbia scelto, in quanto direttore artistico, perché mai possiamo dirlo, che lui nella sua doppia veste, un pezzo che immagino dedicato ai 60 anni di Walter. E perché Fenga, all'Inter, no? Piacciono le cifre tonde, ragazzi. Ecco, bravo, eccoci qui, lascio la parola al mio coetaneo ultracentenario, il carissimo congiunto Marino. È che io sono pazzo di gelosia perché sono per la monogamia, o io o Moratti, lo sapevo. Scegli il congiunto giusto. Sai, lì bisogna tenere presente di una cosa che è molto chiara nella formulazione governativa, no? E quando si parla di affetti stabili è stato precisato che poi, come riguarda la vita privata di gente, si estendono un sacco di persone, hai capito? Quindi io ho un affetto stabile per Moratti e ce l'ho anche per te, non è che adesso... E io non conto più niente adesso siamo al cloud della gelosia. Io non conto più niente allora. Mi tratti così. Sei stabilmente la nostra amante, lo sai benissimo, dai. Tra l'altro io è mio dovere dirvi che sono registrato in questo momento, perché sono in diretta su Sky a parlare con Zenga. E quindi qualsiasi cosa dica potrebbe avere anche un leggero tempo di ritardo, capito? Certamente. D'altra parte, Marino, tu che hai... Insomma, questa mattina ho letto su Facebook, hai fatto gli auguri all'Uomo Ragno, hai scelto questo, o il direttore artistico ha scelto questo pezzo che, come sai, è di miei conterranei, Max Pezzali, ma lo ripeto, quindi siamo tutti un po' fratelli e un po' pareti. Beh, Walter Zenga, insomma, quasi quasi sembra scritto nelle stelle, no? Ieri abbiamo parlato con Beccarossi dello scudetto dell'80, primo scudetto dell'Inter 1910. Oggi anniversario di quella partita che è la madre di quella Champions, 60 anni di Walter Zenga, però 60, ragazzi. Comunque guarda, ti dirò di più, in realtà io ho fatto gli auguri al Deltaplano, no all'Uomo Ragno, solo sì. Che una canzone sul Deltaplano il direttore artistico evidentemente non l'ha trovata. Deltaplano perché fu il soprannome assimilabile a Rombo di Tuona, da Batino e a quant'altro, che fece in tempo a dargli il grande Gianni Brera. A proposito di congiunzioni astrali, di anniversari, di cose strane, la prima squadra che ha allenato quando è diventato allenatore in Italia, da Zenga, si chiamava la Brera che giocava, sì, all'Arena di Verona, intitolata Gianni Brera. Pensa un po'. Sì, penso un po', resta il mi fatto. Mi è scappato anche di dire, ma lo confermo, che almeno per un paio d'anni Zenga è stato il miglior portiere del mondo. Sei d'accordo, Leo, ma tu sei di parte? Beh, io sono di parte perché, essendo interista, anche Zenga può essere considerato un mio congiunto, no? Io credo che lui abbia fatto delle cose meravigliose nella sua carriera. Tra l'altro, come personaggio, devo dire che, pur essendo stato grande tra i pali tra gli anni 80 e l'inizio degli anni 90, lui per certe cose, se ci pensiamo, anticipava un po' il futuro, no? Pensate cosa sarebbe stato Zenga campione nell'era dei social, no? Perché per il suo modo di essere, di porsi, era veramente in anticipo sui tempi. Dopodiché è stato un portiere meraviglioso. Io ricordo a memoria la sua ultima partita con la maglia dell'Inter, che fu una finale dell'allora Coppa UEFA con gli austriaci del Salisburgo. quando praticamente avrebbe parato anche se gli avesse tirato in porta il dittatore nordcoreano Kim Jong-un con un cannone, no? Quindi avrebbe preso anche il proiettile del cannone quella sera lì, perché era in una sorta di trance mistica, e quindi mi fa piacere unirmi a questi auguri per i suoi 60 anni. Sì. Comunque, inutile conduttore, dica. Quando arriva in tempo reale il primo SMS sull'errore su Canizia, mi raccomando. No, ma credo sia, aspetta che controllo i WhatsApp, 349-238-6666, c'è uno che dice, ma come Marino lei mi delude, c'è una vecchia canzone di Laura e Frickian intitolata Deltaplano. Ho capito. Non saprei. Comunque, a parte che è una critica che ha fatto al direttore artistico, appunto, dire, non tu giragliela. Eccola, e poi, qua. Sinceramente, uomo ragno ha un altro significato. 14:40. Peccato che la semifinale dei mondiali del 90 Zenga li ha sulla coscienza. Perfetto, guarda, io per fargli gli auguri gli ho detto che era colpa di Ferri e non colpa sua, in un impeto di generosità. Comunque, c'era un piccolo concorso di colpa, dai. Comunque, non so se avete notato, l'ho fatto notare al presidente Moratti, non so se voi invece avete notato l'eleganza con cui ha glissato sulla pagina conclusiva dell'epopea delle triplette, cioè quella notte di Madrid in cui Mourinho va via paparazzato con gli emissari del Real Madrid e Milito che batte cassa a bordo campo. Ha detto, non mi ricordo cosa ha detto Milito, mi è sembrato quantomeno ingeneroso, comunque giusto per precisione storica quel finale. Posso, anche se rubo una citazione al mio coetaneo e maestro, il grande Enzo Ferrari diceva che le macchine di Formula 1 devono essere fatte per vincere e per rompersi un metro dopo il traguardo. Sì. Esattamente quello che doveva fare quell'Inter, vince e si è rotto un metro dopo il traguardo. È chiaro che col senno di poi è facile dirlo, è chiaro che nessuno di noi lo avrebbe mai fatto, però Schneider, Milito, altri che in quel momento avevano un mercato pazzesco, non soltanto loro, andavano, come dire, congedati, come si è autocongedato Mourinho per ricostruire, perché era chiaro che quell'Inter si rompeva un metro dopo quel traguardo, era abbastanza evidente a posteriori, per carità, poi avremmo fatto tutti come Moratti. Però forse doveva avere la lucidità che Moratti per amore non può avere, perché è un vecchio romantico, di essere cinico e di capire che da lì bisognava ricominciare, non proseguire. Se l'avesse fatto si sarebbe chiamato Ferrari Enzo, non Moratti Massimo, Leo. Ma sai, io ero al Bernabeu quella sera lì e mi ricordo che nella notte dei festeggiamenti già si sapeva di questa scena che Mourinho se n'era andato con Florentino Perez. Poi aveva fatto fermare la macchina, era tornato indietro a baciare il Lacrio Materazzi, però non era rientrato a San Siro con la squadra. E Milito, avevamo sentito quelle dichiarazioni. Sì, Marino ha ragione. Io una volta ne ho anche parlato con Moratti, devo dirvi, e anche Moratti si rende conto, e naturalmente ha detto bene il mio coetaneo, che essendo di voi, che dopo quella notte ci sarebbe voluto il coraggio di dire ai protagonisti di quell'impresa straordinaria, unica, va bene, visto che ne avete la possibilità, andate a guadagnare di più altrove, perché qui avete esaurito gli stimoli. Però è molto semplice, appunto, dirlo dopo. Se in quella fase lì fosse stato detto che oltre a Mourinho sapeva già, eccetera, che si accasava altrove, l'Inter vendeva i campioni che avevano reso possibile il triplete, io mi domando come avremmo reagito tutti, cominciando da me, che sono un congiunto d'affetto stabile di Moratti. E Ferrari è una situazione correttissima, perché invece Ferrari aveva un approccio diverso. Adesso, detto in inglese, a Ferrari quando un suo pilota diventava campione del mondo cominciava istantaneamente a stargli sui coglioni, perché vedi la storia con Laura, no? o con lo stesso Schreck, perché lui aveva questa ossessione che l'automobile era comunque più importante del pilota, di chi la guidava, e quindi non sopportava che l'autista, come diceva lui in senso anche sbrigativo, potesse diventare più prestigioso del mezzo con le quattro ruote. E questo qui era un classico. Infatti io, guarda, ieri ho fatto una conversazione con Montezemolo, no? E parlando così, quando lo invitiamo al bar, Montezemolo? No, cioè lui, per farti capire, Ferrari, Schumacher, 10 anni non l'avrebbe mai tenuto, anche se era il più grande di tutti, anche se vinceva con la Ferrari. perché a un certo punto gli sarebbe scattato, diciamo, gonfiava la vena al collo a dire: ma poi persino in televisione dicono che questo è più importante della mia macchina, ha detto il dialetto modenese, e l'avrebbe congedato, hai capito? Sì, sì, perché sì. Era così. Fammi dire che è un peccato che sono in diretta su Sky Sport, perché ho la sensazione che state facendo una trasmissione bellissima. Senti, allora continuiamo dopo il traffico, perché io voglio che tu mi risponda alle domande che hai lasciato, anzi voglio che Turrini mi risponda alle domande che Bartoletti ha lasciato in sospeso su Facebook, e cioè: Conte e Spadafora, ma si parlano in subordine? Perché a Spadafora il calcio sta tanto sulle palle? Traffico. Bartu, sei unico, meno male che ci siete, ragazzi, Dio vi benedica. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter. O cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Mentre riceviamo benedizione urbi e torbi, addirittura mentre c'è Antonio da Castel Sant'Angelo che vorrebbe Mauro Forghieri al Bar Tour, mi sembra una buona idea, e prima o poi, uno di questi giorni. Allora Leo, ma Conte e Spadafora si parlano, è in subordine, perché al ministro dello sport sta così tanto il calcio sulle palle? Comunque intanto qui dobbiamo chiarire un gigantesco equivoco. Sì. Il ministro Spadafora con Conte, l'allenatore dell'Inter, si consulta regolarmente. Quindi vediamo di uscire da questo, hai capito? No. Con il Conte dell'Inter Spadafora parla. No, beh, io capisco l'atteggiamento di Marino, ne abbiamo già ragionato anche la settimana scorsa. Però devo dire una cosa, dato che prima vi ho citato la mia chiacchierata di ieri con l'avvocato Montezemolo, che non ha interessi, nel senso che non è operativo nel calcio, non è più manager del gruppo Fiat, eccetera, e l'avvocato vi ha detto: invece secondo me è la Lega Calcio Italiana che sta facendo una bruttissima figura. Perché lui dice: in questa situazione avere l'ossessione di dover riprendere gli allenamenti eccetera, quando non si sa, mi pare che abbia detto anche Moratti nella prima mezz'ora della sua trasmissione, se sarà possibile ripartire con il campionato in tempi ragionevolmente brevi, non ha troppo senso. Io rimango dell'idea del senatore Galliani, fatto senatore da Berlusconi per meriti calcistici, che a fronte di questa realtà, che non è colpa di nessuno perché sappiamo benissimo una pandemia bla bla bla, sarebbe molto più sensato dire: ok, pensiamo di ricominciare da settembre, finendo la stagione dove è stata interrotta risolvendo tutte le questioni legali, contratti eccetera, tra settembre e dicembre, e poi dopo giocheremo i campionati con l'anno solare. Perché questa cosa qui, che no, bisogna assolutamente, cioè io faccio veramente, ma non perché non sia bello, ma chi è che non vorrebbe rivedere i gol, le partite? Guardate, e Bartoletti, a me non solo manca il VAR, ma vado a cercare in streaming le partite del campionato bielorusso e del campionato nicaraguense, quindi figuratevi se non condivido la nostalgia del pallone. Ma la domanda è: ci sono le condizioni perché i calciatori si accalchino in mischi in un'area di rigore, quando comunque, al di là dei congiunti eccetera, dobbiamo tutti stare almeno un metro uno dall'altro? Perché poi alla fine sta roba qui, abbiamo giocato partite a porta chiusa all'inizio di marzo, più di 20 calciatori di Serie A contagiati. Allora io chiedo, noto però, e lo chiedo in differita a Marino Bartoletti, che in questo momento sto vedendo su Sky con la maglietta di Zenga, che è una magia della tecnologia contemporanea, che è un problema che riguarda non solo una domanda, questa che riguarda quella che ha fatto Leo, che riguarda non solo il fronte italiano ma il fronte internazionale, perché tutti stanno facendo più o meno le stesse domande, però stanno agendo in modo più o meno diverso rispetto a noi. Guarda, io se ho capito la domanda, perché come sai sono indifferita, no? Certo. Però io, come sai, non farò i sit-in per far ricominciare o meno il campionato italiano di calcio, che è un'entità assolutamente subordinato, come ha detto il mio congiunto, a a quelle che sono le cose più serie e più importanti. Però trovo A, che comunque chi gestisce il calcio italiano debba comportarsi come se, per non essere impreparato nel caso che la pioggia spazzasse via questo tormento che ci viene inflitto. B, sinceramente, al di là della cattiva comunicazione fra un ministro e il presidente del Consiglio dei Ministri, che non è la prima volta che si smentiscono l'uno con l'altro apparendo a poche ore o addirittura a pochi minuti l'uno dall'altro, quello che mi dispiace, mi mortifica e un po' mi offende come persona che il calcio lo ha sempre amato esattamente come tutti gli altri sport, è che quello che può essere un giusto principio esposto dal ministro dello sport, secondo me viene mescolato pesantemente con una guerra personale che lui sta portando nei confronti di qualcuno, nella fattispecie la Lega Calcio, che non si sta comportando bene, però lui deve essere al di sopra delle parti e soprattutto quando parlano devono dire delle cose scolpite nella pietra, rare, preziose e coerenti. Io sono d'accordo con te, sai, sposo questa corrente e questo pensiero. Non me ne frega nulla se il campionato ricomincerà, cioè non me ne frega nulla, mi importerebbe perché vuol dire che la tempesta è passata, però questo modo di agire a me infastidisce e lo dico più o meno tutti i giorni. Tanto che ieri, Leo, avrei, non solo io ma credo molti, metaforicamente abbracciato Cischerei, che è il boss di Liberty Media, che ha detto, poi magari non sarà vero, però quantomeno ha messo delle bandierine che sono piuttosto precise. Il 5 luglio si corre in Austria. Poi qualche ascoltatore già domanda, ma se non ci sono le condizioni per far ripartire il calcio, ci sono quelle per la Formula 1 o il MotoGP? Non lo so, questo atteggiamento. Però scusami caro, dato che anche tu sei un carissimo congiunto mio, l'americano di Liberty Media che governa la Formula 1 non a caso ha detto ripartiamo il 5 luglio, cioè fra più di due mesi, e ovviamente a porte chiuse. Ora noi sappiamo benissimo, per la realtà del calcio italiano ed europeo, che ragionare che si torni a giocare il 5 di luglio comunque per gli schemi prefigurati finora fa saltare tutto, perché in Italia c'hai 12 partite di Serie A più i recuperi, poi ad agosto la UEFA, giustamente se fosse possibile, vorrebbe completare le coppe europee, cioè non è la stessa cosa, dire andiamo a correre in Austria il 5 luglio e dire giochiamo le semifinali di ritorno di Coppa Italia il 27 di maggio, c'è più di un mese di differenza, cioè, guardate che in questa situazione purtroppo le date hanno un'importanza non secondaria. Però io ripeto, non voglio passare per quello che si oppone. Se fosse per me, per la passione e il desiderio che ho io, sarebbe bellissimo se la Serie A ricominciasse ieri, perché è una cosa che ci manca, fa parte del nostro costume collettivo, del nostro vivere sociale. Quindi, per carità, io dico solo che è bene che ci sia una chiarezza assoluta su quelle che sono le condizioni e su quella che è la soglia di rischio tollerabile, perché ad esempio una domanda che tutti pongono e alla quale si guardano bene da rispondere è: se ricominciamo, e ripeto io vorrei ieri, e c'è poi di nuovo un contagio in una squadra di Serie A, cosa facciamo? Rifermiamo tutto subito? Perché questa è la linea guida a livello scientifico sanitario, Sì, però basta che lo sappiamo. Però il fatto, certamente, ma poi si può dire che ci dicono dovete convivere con questo problema. Nella convivenza, della convivenza fa parte anche la malaugurata ipotesi che va prevista e gestita. Quello che dico io. Voglio aggiungere una cosa sulla quale sono certo che il mio coetaneo è d'accordo. A me va benissimo, non parlo solo di calcio, se si dice a livello generale. Ci dobbiamo abituare all'idea che dobbiamo convivere con questo virus e accettarne i prezzi, i costi, no? Quindi sapere che riaprire non il calcio, tutto, implicherà comunque delle conseguenze, delle fatalità e tutto. Se ci va bene, se siamo disponibili ad accettare questo, riapriamo i bar con tutte le precauzioni, le misure di sicurezza, per amor di Dio, ma riapriamo tutto e accettiamo che possa di nuovo esserci quello che purtroppo abbiamo visto negli ultimi 50 giorni e non soltanto, certo, in Italia. Però il fatto, ripeto, no, ma questo è sacrosanto, questo è sacrosanto, però ripeto, Marino, il fatto di mettere comunque una bandierina che sia precisa, che poi sia il traguardo raggiungibile, non so quanto, però sia un traguardo, insomma, io credo che emotivamente aiuti, quantomeno emotivamente. Ma certamente, a parte che io trovo scandaloso che i parrucchieri aprano soltanto il 1 giugno e credo di avere anche la solidarietà del conduttore di questa trasmissione, per la chiaro, cioè, assolutamente, io sono disperato. Poi tra l'altro dobbiamo fare come se, Carlo, dobbiamo fare assolutamente come se, pensa se si prospettasse la possibilità di, come dire, essere pronti a ricominciare e noi non lo fossimo pronti, ecco, quella sarebbe una cosa veramente inaccettabile. Invece sulle possibilità della, ad esempio, Formula 1, Moto Mondiale, so che si parla di correre sempre in Austria, di cominciare sempre in Austria ad agosto, è una follia tutto questo o è una calendarizzazione corretta secondo te, Marino? È una speranza corretta, fra l'altro poi Leo diceva la Formula 1 dovrebbe ricominciare soltanto a luglio, se non ho capito male il 5, sì. In fondo anche il calcio si è dato una deadline a metà giugno, che non è poi molto differente per la verità. L'importante è che tutti i movimenti sportivi siano pronti a, perché se non lo fossero, quello sì che sarebbe il vero peccato mortale. Se non troviamo, come dire, motivazioni, se non inquadriamo nel mirino una speranza, allora possiamo aprire l'ombrello immediatamente. Va bene, ragazzi, grazie davvero, Grazie davvero come sempre. A presto, cari congiunti, vi verrò a trovare. E mi unisco alla benedizione del nostro ascoltatore di prima, che abbiamo apprezzato molto, e ci troviamo martedì prossimo con Marino Bartoletti e Leo Turrini, domani con gli amici tutti convocati. Io ringrazio Alessandro Marco Tulli e ovviamente Claudia Schiattone in redazione, Roberta Frisani in regia. Ciao a tutti. Minchia, è stato una montana russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.